Capitolo 5. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo, nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse, dopo aver generato Set, fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Maalalel. E Kenan, dopo aver generato Maalalel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Maalalel visse 65 anni e generò Jared. E Maalalel, dopo aver generato Jared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalalel visse fu di 895 anni, poi morì. E Jared visse 162 anni e generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamech. E Metusela, dopo aver generato Lamech, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamech visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: «Questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni, poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet.